Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Vi terremo anche aggiornati per quello che riguarda la vicenda che già annunciamo ai nostri GR, cioè un uomo nel Bergamasco si è chiuso circa mezz'ora fa nella sede di Equitalia di Romano di Lombardia, appunto in provincia di Bergamo, dove ha inizialmente preso alcuni ostaggi, poi ha fatto uscire tutte le persone che erano presenti, una dozzina tranne una. L'uomo è armato di fucile e appunto ha detto di voler parlare con la stampa e che solo dopo libererà l'ostaggio. Ha urlato di essere in difficoltà economiche e di volersi togliere la vita. Questo l'aggiornamento. Chiaramente parleremo in una giornata in cui tratteremo la Banca Centrale Europea, tassi invariati, prospettive incerte sulla crescita economica. Parleremo anche di quello che potrebbe emergere questo weekend, ormai ci siamo, tra domenica e lunedì l'Europa potrebbe cambiare volto, in ogni caso secondo molti osservatori non sarà più la stessa, elezioni greche ma soprattutto elezioni in Francia, il secondo turno, elezioni amministrative anche in Italia e un land molto importante in Germania. Parleremo di Francia, lo scontro ieri tra Sarkozy e Hollande, il confronto televisivo, scontro in alcuni momenti, su temi anche e soprattutto economici, sarà oggetto della prima parte del programma. In aggiunta c'è una buona notizia che riguarda invece proprio gli imprenditori in difficoltà, leggeremo anche oggi alcune delle lettere arrivate all'indirizzo disperatimai@radio24.it, l'iniziativa che abbiamo lanciato con tutta la radio, inizialmente Oscar Giannino è sottoscritto, poi tutta la radio vi ha preso parte per dare voce, almeno voce, agli imprenditori, artigiani, commercianti in difficoltà. Dicevo, c'è un'iniziativa di cui parleremo perché la regione Piemonte e in particolar modo le ASL e le ASO pagheranno entro un mese i crediti che hanno nei confronti dei privati. Per cui i fornitori della regione Piemonte, ripeto in particolar modo quelli delle ASL, e sappiamo che il 70% circa di questi crediti ancora non pagati dalla pubblica amministrazione riguardano la sanità, verranno pagati entro un mese. Una boccata di ossigeno per le imprese, avremo ospite chi ha proposto, che è Andrea Buquicchio, capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio regionale, ma va detto che tutto il Consiglio regionale in maniera bipartisan, quindi maggioranza e opposizione, ha votato a favore, una boccata d'ossigeno, a dimostrazione che anche le regioni, se i conti li hanno in ordine, qualcosa possono fare per i loro imprenditori, non se invece i conti non li hanno in ordine o non se usano, come ha fatto la Regione Sicilia recentemente, i soldi destinati allo sviluppo, i fondi che servono per le aree più depresse vengono usati per ripianare i buchi fatti nella sanità. Questo non ha senso. Ancora, dicevo, la missione degli industriali italiani in Turchia, il paese che ha la crescita più forte dell'area euro, un paese in cui stranamente l'Italia è poco presente, con alcune imprese che hanno lì delocalizzato, aperto impianti, quindi internazionalizzato, è poco presente nella domanda e nei consumi. Faccio notare che la Turchia l'anno scorso ha avuto una crescita superiore all'8%, quindi una crescita cinese, solo che è molto più vicina della Cina, sia culturalmente che geograficamente. 349-238-6666 per i vostri SMS. Per quello che riguarda i mercati, sono leggermente negativi tutti gli indici, meno 0,15 Parigi, meno 0,30 Francoforte, Londra è quella che va meglio, è invariata, l'America perde lo 0,12, Milano perde lo 0,6%, di nuovo però sotto pressione i bancari, Popolare Emilia Romagna meno 4,5%, Unicredit meno 4,5%, Banco Popolare meno 4%, Mediobanca meno 3,70%, Monte dei Paschi meno 3,60%, Ubibanca meno 3,20%. Per cento, Intesa meno 3%, Popolare di Milano meno 2,80%. Chi va bene? Di nuovo Pirelli, più 2,5, Atlantia, più 3, Telecom Italia, più 1,80, Prismian, quindi l'ex Pirelli Cavi, più 1,60%, come Azimut, Luxottica, più 1,40, l'Automatica, più 1,20. Tra i titoli che perdono, però, il peggiore non è un bancario, è A2A, meno 5%, e poi da segnalare anche il calo pesante di Finmeccanica, che si riporta sui 3 euro per azione, meno 4,15%. Ultima cifra, come sempre, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Le notizie in breve. Petrolio in calo, ma ormai petrolio e oro, devo dire, li citiamo per dovere di cronaca, ma sono fermi, sono abbastanza inchiodati a 105 dollari oggi il petrolio, a 1648 dollari l'oncia l'oro. Dall'America, sussidi di disoccupazione in calo di 27.000 unità, e invece in Europa, ma ne parleremo più avanti, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati. Draghi ha detto che la ripresa è graduale, prevale l'incertezza. No, c'è una notizia però abbastanza sorprendente, o meglio, non così sorprendente forse. I depositi overnight, cioè quello, le banche europee, piuttosto che prestare soldi alle imprese o prestarsi soldi tra di loro, le banche europee preferiscono depositarli nottetempo nell'overnight, quindi nella Banca Centrale Europea, e poi ritirarli la mattina dopo. Per loro è un overnight, per gli imprenditori è l'overnightmare, come abbiamo detto con una battuta. Ebbene, questi depositi delle banche europee hanno di nuovo superato il tetto degli 800 miliardi di euro, non accadeva dallo scorso marzo. Questo vuol dire, lasciatemelo dire in maniera un po' brutale, che i soldi che hanno ricevuto, i 1.000 miliardi che hanno ricevuto le banche europee dalla Banca Centrale Europea in due tranche, beh, insomma, con un calcolo un po' grezzo, un po' a spanne, però se 800 miliardi li depositi tutte le notti, o ieri notte li hai depositati presso la Banca Centrale Europea, vuol dire che tu sostanzialmente questi soldi non li stai rimpiegando, o parte di questi soldi non li stai rimpiegando. Non ti fidi delle tue banche, delle altre banche, delle tue concorrenti, e probabilmente non sei nemmeno così in grado di valutare a quali imprenditori darli e a quali non darli, perché è chiaro che non si possono dare a tutti, però non si possono chiudere i rubinetti per tutti. Siamo capaci tutti di fare credito o non fare credito in questo modo. E poi c'è un Mario Draghi in versione La Palis, ma insomma l'importante è che lo dica anche lui, dice: meglio tagliare la spesa che alzare le tasse. E su questo penso che ci siano pochissime obiezioni, bisogna poi farle queste cose. Per ora la manovra del governo ha alzato le tasse e non ha ridotto la spesa. Però Mario Draghi ha parole di apprezzamento anche per il governo Monti, ha detto: Mario Monti è sul sentiero del risanamento, l'esecutivo italiano deve essere incoraggiato. Quando si parla di risanamento dei conti pubblici, è certamente una ricetta migliore tagliare la spesa corrente che aumentare le tasse. Aggiungo che è consigliabile tagliare la spesa corrente, non la spesa per investimenti. Riguardo l'Italia, penso proprio che io possa affermare che sono stati compiuti progressi significativi. Credo che il governo debba essere incoraggiato nei suoi sforzi, visto il considerevole sforzo di risanamento dei conti pubblici che ha avviato. Posso quindi solo ripetere quanto ho detto in precedenza, e cioè che è veramente sulla buona strada. It's really on a good path. Ecco, però a mio avviso Mario Draghi potrebbe essere anche un po' più duro con le banche europee, visto l'ammontare dei depositi notturni. Ci scrive adesso un bancario, e molti sono quelli che finendo di lavorare più o meno a quest'ora ci ascoltano e ci scrivono. Dice: lavoro in banca, non riusciamo a dar fuori i soldi e a deliberare crediti, ci bocciano tutte le pratiche di fidi e di finanziamenti. Allora, per l'ultima volta, le banche non devono prestare soldi a rischio, devono usare la sana e prudente gestione, anche perché i soldi delle banche non sono delle banche, sono dei risparmiatori italiani. Però non possono dire semplicemente si bloccano i prestiti a tutti. Ripeto, così lo fa anche mio figlio. Vai, se sei ancora in grado, a valutare caso per caso a chi li puoi dare, a chi li puoi levare. Se no, è chiaro che il sistema collassa. Se collassa il sistema, collassano anche le banche. Nel frattempo arrivano, per quello che riguarda l'Italia, notizie sulla spending review, sulla revisione della spesa, commissariati di polizia e caserme dei carabinieri, oltre alle sede dei monopoli di Stato, daranno 56 milioni annui di risparmi. Vabbè, meglio che niente. Dieta ne arriva anche per uffici e immobili pubblici. Tra il 2012 e il 2015 è prevista una riduzione degli spazi utilizzati pari a 46.000 metri quadri. Il ministro Cancellieri però ha detto non vi saranno tagli alle forze dell'ordine, e questo mi sembra però corretto, tagliata da un'altra parte. E poi il sottosegretario Polillo ha detto bisogna mettere mano agli aiuti pubblici alle imprese, semplificare al massimo e basta con la discrezionalità negli aiuti alle imprese. Lì se ne occupa, se non ricordo male, Francesco Giavazzi. Nel frattempo ministro Fornero oggi ha parlato alla Camera sul tema degli esodati. Allora adesso io vi dico una cosa che vi farà arrabbiare. Perché da un lato la revisione della spesa non coinvolge Parlamento, Quirinale e Corte Costituzionale. È previsto dalla legge, però basterebbe un atto del Presidente della Repubblica e del Parlamento per dire no, anche noi vogliamo aver ridotto le nostre spese. E invece silenzio totale. Ma non basta, perché oggi il ministro Fornero in aula parlava di un tema da niente, no? Gli esodati. Cioè abbiamo 65.000 persone che non hanno più lavoro e non avranno una pensione. Sapete quanti deputati erano in aula oggi? Anzi, non ve lo dico. Facciamo scommesse, intanto ascoltiamo il ministro Fornero sul tema degli esodati. Questi lavoratori sono stati identificati in un numero di 65.000. In questi giorni emaneremo il decreto attuativo che consentirà all'INPS di passare alla definizione di un diritto soggettivo, attribuito quindi a lavoratori con nomi e cognomi, dell'utilizzo della possibilità di godere delle precedenti e più generose regole di pensionamento. So che ci sono altri lavoratori, vorrei chiedere a mia volta qual è la base per l'ordine di grandezza che è stato indicato, 350.000, perché l'INPS non ha informazioni sufficienti a quantificare il numero, ma quando ha parlato di cifre ha indicato cifre molto più basse. In ogni caso, queste sono persone che negli anni a venire saranno interessate da provvedimenti di termine della mobilità o termine dell'ammortizzatore sociale che prevedeva il pensionamento al termine dello stesso. Quindi per questi noi stiamo valutando il numero e che cosa è possibile fare. No, siete molto distanti. Io ho chiesto un piccolo sondaggio: secondo voi quanti deputati erano presenti oggi su 630 deputati che costano un miliardo di euro quasi, costa il Parlamento, un miliardo di euro all'anno, quanti deputati erano presenti oggi in aula? Non ci state arrivando. Su 630 i deputati presenti, c'è chi dice 76, 30, troppa grazia, 26, niente, no, chi l'ha letto su internet non vale, 22, niente, 20, niente. I deputati presenti per ascoltare il ministro Fornero sul tema degli esodati, quindi altri 60.000, oltre 65.000 su cui si dovrebbe trovare una soluzione, ma gli altri che sono fuori, i deputati che avevano a cuore il tema, erano 8, nemmeno una squadra di calcio.

Adesso la grigliata di pesce costa 15 euro, la pasta pomodoro comunque se costa 3 euro e il caffè resta 36 centesimi e altre amenità. Però insomma il fatto che siano aumentati i prezzi, si è avuto meno il ticket, a me la grigliata di pesce a 15 euro sembra ancora, no, visto che mangi dentro, me lo conferma il tecnico in regia che è siciliano e palermitano, no, mi sembra ancora buono a 15 euro. Però tant'è, e quindi massima comprensione per tutti i consiglieri della regione, dell'Assemblea regionale siciliana, perché capiamo la disperazione nel dover andare fuori in un bar a cercarsi un panino, magari con la meusa, si dice meusa? Sì, con la meusa, no. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Meusa, meusa, mi ha corretto. Intanto però al Senato si spendono 58.000 euro al mese per le fotocopie, ma come le fanno? Ma costerebbe meno un amanuense assiro-babilonese a trascrivere 58.000 euro al mese di fotocopie. E si trova tutto sul sito online del Senato, che ha fatto un bando di gara: appaltiamo il centro di riproduzione digitale, la fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multifunzione e la relativa manutenzione e assistenza. Praticamente, in italiano, l'appalto è per stampanti, fotocopiatrici, toner e inchiostri. Per 3 milioni e mezzo in 60 mesi, 700.000 euro l'anno, 58.000 e passa euro al mese. Quindi se qualcuno opera nel settore fotocopiatrici, stampanti, toner e inchiostri, si metta a gara. Faccia questa gara, perché sono 700.000 euro l'anno, non gli capita più. Speriamo che poi la gara, ma non abbiamo dubbi, che la gara sia verso la massima trasparenza. Beh, non c'è un modo comunque per evitare che ogni senatore spenda 10 euro al giorno di tipografia, esclusa la carta, 10 euro. Il Senato stampa 20 milioni di pagine in bianco e nero e 1 milione di pagine colori. Ma che ve ne fate? C'è internet, avete l'iPad, ve l'hanno anche dato. No, usate l'iPad, 20 milioni di pagine in bianco e nero e 1 milione di pagine a colori. Praticamente ecco perché occorre noleggiare 200 tra stampanti e fotocopiatrici, che sono, cioè, multifunzione. E la gara precedente per agende da tavolo e tascabili, 950.000 euro. Possibile che non ci sia una banca, una cassa di risparmio che regala un'agendina a un senatore? È veramente un mondo, Carottone, com'è che cantava? Perché insomma, è un mondo triste, perché se tu devi spendere 1 milione di euro l'anno per agende da tavolo e tascabili, hai bisogno di spendere 10 euro al mese di tipografia, esclusa la carta, devi stampare 20 milioni di pagine bianche e nere, 1 milione di pagine a colori, devi avere 200 macchine fotocopiatrici e appunto nessuno ti regala le agende, quindi devi ordinare 5.200 agende da tavolo e 17.000 agende tascabili. Ma perché 17.000 se sono in 315? Non si sa quante cavolo di tasche hanno. E poi in 4 formati diversi, purché siano in vera pelle, a questo punto pelle di esodato, verrebbe voglia da dire. Vi chiudo con 1 milione, mi viene da piangere, 1.350.000 euro per il servizio di monitoraggio di giornali, radio e TV. Se ci chiamate ve lo facciamo a un terzo a Radio 24, li monitoriamo ogni giorno radio e TV. Comunque un po' di solidarietà per i nostri senatori, che, a cui nessuno, neanche l'ultima delle banche, delle BCC, regala un'agendina da tavolo e un'agenda tascabile. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua con certo calma. E mentre cala questa tristezza e anche solidarietà nei confronti dei nostri senatori, per riprendere un po' il filo chiedo la pubblicità, il meteo, mi ricompongo. In realtà, tornando a essere seri, abbiamo anche delle lettere da leggere oggi, lettere che sono arrivate nel giorno in cui purtroppo si registrano altri 2 suicidi. Meteo. 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, lo so, fa molto arrabbiare quello che ho letto su quanto spende il Senato, sulle agendine, sulla fotocopiatrice, nel giorno in cui, guardate che qui è difficile, in cui dobbiamo commentare due suicidi, centinaia di mail che sono arrivate ancora all'indirizzo Disperati Mai. Adesso ci collegheremo con chi sta seguendo invece quello che sta succedendo a Bergamo, in provincia di Bergamo, dove si è barricato nella sede dell'agenzia delle entrate un uomo che è un ostaggio. L'invito è sempre il solito, esistono forme di protesta e anche di manifestazioni che non devono portare chiaramente né a reati né a situazioni estreme, l'abbiamo sempre detto, ma piuttosto, se non ce la fate più, non pagate, ma non, togliersi la vita non ha alcun senso. Detto questo, nessuno sta facendo il populismo, lo dico a chi scrive, ah, lei se la prende con la politica, ma non è da lì che arrivano gli sprechi. Allora, due cose. Nessuno ha mai detto che per colpa del Senato, della gentile del Senato, ci siano gli imprenditori in crisi. Però, cavolo, lì non si taglia mai, eh? Secondo aspetto, visto che tutti se la prendono con Grillo, a me Grillo non fa né caldo né freddo, però è populista, è antipolitica. Allora, se la politica è questa, meglio l'antipolitica, uno. Due, qualunque capo ufficio sa che la cosa più importante è dare l'esempio, no? Per poi farsi rispettare. Allora, dessero l'esempio, date l'esempio, tagliate le agendine, usate l'iPad, usate i post-it, scrivono alcuni ascoltatori che sono pieni di agendine, ve le mandiamo noi le agendine, ma spendere, e adesso mi stanno veramente girando, perché c'è anche chi li difende, spendere 1 milione di euro per le agende da tavolo e tascabili, di cui 5.200 agende per 2 anni da tavolo e 17.000 agende tascabili in 4 formati diversi, ma che te ne fai, purché siano in vera pelle, ripeto, di esodato, aggiungo io, ecco, quello non è dar l'esempio, è fregarsene, non posso usare altri termini. Siccome però siamo seri, torniamo a essere seri. Simone Spezia sta seguendo questa cosa che non avremmo mai voluto commentare. C'è un uomo, è entrato alle 16:30 nella sede di Equitalia di Romano di Lombardia a Bergamo, ha preso alcuni ostaggi, è armato, gli ostaggi dovrebbero essere tutti usciti tranne uno. Simone. Sì, Sebastiano, allora, innanzitutto l'ultima notizia appena data dal sito dell'Eco di Bergamo è che negli uffici è entrato anche un carabiniere che sta cercando di raggiungere una mediazione con l'uomo che ha assaltato l'ufficio armato di fucile. L'ufficio è quello, in realtà, all'inizio si era detto che era un ufficio di Equitalia, è in realtà l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, appunto, di Romano di Lombardia, quindi questo si è appreso naturalmente più tardi. Quello che si sa per certo è che all'inizio aveva preso una 15 di ostaggi, 12 per essere precisi, e poi li ha rilasciati tutti e ne ha tenuto solamente uno, è un impiegato proprio dell'Agenzia delle Entrate che ha tenuto come ostaggio. Al momento quel che si sa è che l'uomo ha chiesto di parlare con la stampa per parlare dei suoi problemi economici e ha anche minacciato di togliersi la vita. Questi al momento i dettagli che abbiamo. Grazie Simone, speriamo che nulla di tutto questo avvenga. Ha confermato che vuole parlare con la stampa, scusami, prima di liberare l'ostaggio? Sì, queste sono le notizie che abbiamo al momento, insomma. Ha detto appunto che vuole parlare con dei giornalisti per raccontare evidentemente la sua situazione economica, che è evidentemente una situazione di difficoltà, se no non sarebbe quella la sede scelta, diciamo, per un gesto così estremo, molto di più non si sa al momento. Grazie Simone Spezia. Adesso passo alla borsa, chiaramente. Vedo alcuni messaggi, c'è chi dice... racconto un ascoltatore, io vi prendo sempre per vero. Mostrandomi un'agenda di pelle, un onorevole mi disse: tu non sai cosa non ho fatto per questa, è uno status symbol. Vabbè, mazza, ancora con l'agenda, con lo status symbol. È il borsello, no? E invece, no, guarda, rido perché sennò oggi non arrivo alle 18:30. E invece c'è chi scrive: stia zitto lei, Barisoni, che poi quando invita i politici si mette a 90 gradi, non posso usare l'espressione, e crede a tutto ciò che le raccontano. Stia zitto almeno ora, a parte che condurre un programma stando zitti è un'impresa difficile, ma poi questi politici quando li abbiamo avuti? Non li invito più da mesi perché non mi interessano. Borsa. Eccoci ai mercati, meno 0,60% Milano, meno 0,1% scusate, Parigi, meno 0,24% Francoforte, più 0,1% Londra, meno 0,1% l'America. Poco mosse oggi le borse, un po' peggio delle altre a Milano. E commentiamo come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, l'indice è poco mosso, però è stata un'altra giornata di batoste per i bancari. Esattamente, poi diciamo che la giornata è stata molto volatile, dopo una partenza cauta le borse hanno guadagnato molto terreno per poi perdere sul finale dopo le parole del Presidente della BCE Mario Draghi e alcuni dati macroeconomici deludenti provenienti dagli Stati Uniti. E le banche sul finale hanno perso terreno e le indicazioni che sono venute da Draghi secondo alcuni operatori hanno deluso il mercato soprattutto perché Draghi sembra aver escluso in modo molto deciso qualunque possibile nuova azione di allentamento della politica monetaria per sostenere l'economia, cosa che evidentemente qualcuno sperava, quindi tutte le borse dopo queste parole hanno perso terreno e hanno sentito soprattutto i settori come quello bancario molto esposti alla volatilità di recente e sempre bersaglio delle vendite. Allora, molti ascoltatori, scusami, sto un po' trattando diversi temi oggi, Paolo, chiedono di fare un annuncio, io lo faccio, non mi costa, figuratevi, nulla. All'uomo che è barricato nella sede dell'Agenzia delle Entrate in provincia di Bergamo, se vuole chiamare lo ascoltiamo in diretta, ma volentieri, non penso obiettivamente che ci stia ascoltando, ha ancora uno stagio che un impiegato. Nel frattempo un ascoltatore ha fatto il calcolo che 17.000 agende sarebbero 27 agende a senatore, no, si sbaglia, perché non sono 630, sono 630 i deputati, i senatori sono 315, quindi sono 54 agende a testa. Complimenti. Andiamo avanti, Paolo Paronetto, dicevi delle banche e oltre al settore bancario, adesso do anche le variazioni, Popolare Emilia Romagna meno 4,60 come Unicredit e il Banco Popolare, Mediobanca meno 3,60 come Monte dei Paschi, Intesa meno 3,12, Popolare Milano meno 2,80 e Ubibanca meno 2,80 anch'essa, chiudiamo con le generali meno 1,40. Dicevo, oltre ai bancari però oggi negativa A2A meno 4,50 ed non è la prima seduta negli ultimi giorni e Finmeccanica meno 4%. Sì, per quanto riguarda A2A continua la debolezza in vista appunto di capire come si risolverà l'impasse Edison e sul futuro delle strategie del gruppo. Oggi il Comune di Milano ha presentato i propri candidati per il Consiglio di Sorveglianza, vedremo come evolverà la situazione, comunque sono settimane che il titolo soffre. Per quanto riguarda Finmeccanica, il titolo ha perso il 4,03% dopo l'annuncio dei conti del primo trimestre, i risultati sono stati in realtà in linea con le attese, anche con qualche sorpresa positiva, ma a deludere il mercato è stata la mancanza di indicazioni sull'annunciato piano di dismissioni da 1 miliardo che deve essere, secondo gli annunci della società, portato a termine quest'anno. Quindi nel 2012 il mercato si attendeva qualche aggiornamento e magari qualche dettaglio su concrete trattative in corso, ma non è stato detto nulla nel corso della conference call di presentazione dei conti, da cui la delusione e le vendite sul titolo della società. Ancora sui titoli, devo dire, diamo anche qualche titolo positivo. Oggi bene Atlantia più 2,80, Pirelli più 2,5, Telecom più 2,1, Azimut più 2%. Pirelli continua, correggimi però se sbaglio, a risentire dell'ottima degli ottimi conti, dell'ottima trimestrale. Pirelli si sente molto sentito, sì, va bene, sì, anche sì. Di alcuni concorrenti come Continental di recente ha sostenuto il titolo che continua a essere premiato. Devo dire che era molto illuminante quel passaggio dell'intervista di Leonardo Del Vecchio nel fine settimana al Corriere della Sera, quando diceva: ho criticato Tronchetti Provera per l'operazione Telecom, e devo dire non è stato il solo, e molti dubbi su quell'operazione restano anche a noi, sulla creazione di valore, non sull'operazione in sé, ma sul fatto se abbia o no creato valore, a noi non sembra. E però sono pronto a riconoscere quanto bravo è stato Tronchetti da quando ha preso in mano la Pirelli, ed il messaggio era: gli imprenditori la smettono di fare finanza e tornino a fare impresa, e citava come esempio proprio Tronchetti Provera, le due vite, una in Telecom e adesso invece in Pirelli. Detto ciò, c'è anche Telecom, ma è di Bernabé, più 2,16%. Telecom. Sì, per quanto riguarda Telecom Italia, oggi è il giorno del CDA di Telco, quindi l'azionista di riferimento che deve fare il punto sul piano per il rafforzamento patrimoniale e il scadenziamento del debito, ma il titolo è stato premiato soprattutto dal buon momento dell'intero settore europeo delle TLC, che in una giornata comunque poco mossa guadagna guadagnato quasi mezzo punto percentuale appunto a livello europeo. Ci sono stati i conti di France Telecom che sono stati migliori delle attese. France Telecom alla fine ha chiuso a più 0,3 dopo aver guadagnato molto di più nel corso della seduta, quindi diciamo che è stato un movimento generale a livello europeo di cui appunto ha approfittato anche Telecom Italia. Traffico, poi migliori peggiori. Minuti, di nuovo in diretta, i migliori e peggiori, dicevamo, della giornata in borsa. Praticamente migliore Premuda più 13%, Edison sulle risparmio più 9,70, il Sole 24 Ore più 6%, è a 71 centesimi di euro per azione, quindi ancora ne manca per recuperare il livello del collocamento. Classe di Tori più 5,43%. E poi Landi Renzo più 5,40 e Ciccolella più 4,31. Il peggiore Vita, società editoriale, meno 10,80, Pramac meno 9,5, D-Mail meno 10,60. Ma notizie sul Sole 24 Ore Class? No, chiedo, perché vedere due titoli del settore editoria e finanza in questo rialzo, tanto parliamo anche di tutto, eh. Diciamo che il settore editoriale è stato in questi giorni sotto i riflettori, soprattutto per quanto avviene in casa RCS, che ha guadagnato oggi il 2% dopo aver guadagnato il 5% ieri, soprattutto i movimenti nell'azionariato. Ieri Diego Della Valle ha sottolineato che secondo lui il patto di sindacato di fatto non esiste più e ha annunciato la propria volontà di salire ancora nel capitale del gruppo. Per quanto riguarda il Sole 24 Ore, ricordiamo che ieri è stata approvata la trimestrale da parte del Consiglio di Amministrazione, quindi evidentemente il mercato ha premiato i risultati di bilancio dei primi tre mesi dell'anno. Grazie, grazie a Paolo Paronetto. E adesso ci spostiamo invece sulla Banca Centrale Europea, e quindi tassi invariati, devo dire ampiamente atteso, tassi invariati. Però una ripresa che, a detta di Mario Draghi, è una ripresa ancora che stenta. Abbiamo già sentito Mario Draghi sull'Italia, quindi dire va davanti Monti, è sulla strada giusta, va anche incoraggiato. Sentiamo questo passaggio in cui anche il Presidente della Banca Centrale Europea ammette, chiarisce, ricorda che il problema dell'Europa in questo momento è la crescita e di conseguenza l'assenza di posti di lavoro. There's absolutely no contradiction between a growth compact and a fiscal compact. Non c'è assolutamente contraddizione tra la crescita e il fiscal compact. Infatti la crescita è sostenibile nel lungo termine solo se basata su una gamma di parametri, tra cui la stabilità dei conti pubblici. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che si debba mettere di nuovo la crescita al centro dell'agenda e, ripeto, senza alcuna contraddizione con il processo di consolidamento di finanza pubblica. Riguardo il mercato del lavoro, si deve creare occupazione, posti di lavoro. Si devono fare riforme che abbiano tre caratteristiche. Innanzitutto che aumentino la flessibilità, poi che aumentino la mobilità e, per finire, anche l'equità. Ciò che osserviamo ora è una situazione con forti squilibri che svantaggiano i più giovani. Abbiamo visto recentemente salire il tasso di disoccupazione giovanile e questo a causa di distorsioni presenti nel mercato del lavoro. Si deve poi cercare di creare un sistema con strumenti che siano una sorta di assicurazione in caso di disoccupazione, che rendano realistica la richiesta di flessibilità e mobilità. That makes these mobility and flexibility requirements realistic. Io questa frase di Mario Draghi, a parte che sapete che il suo inglese mi fa impazzire, ma la userei come, quasi come una sigla nostra, perché deve ascoltarla molto bene Angela Merkel. Non c'è nessuna incompatibilità tra fiscal compact, ossia la riduzione della spesa pubblica, portare il deficit a zero e abbassare il debito, cioè quello che la Germania ha obbligato tutti i paesi a fare, è un growth compact, è un accordo per aumentare la crescita. Non è che se tagli non puoi crescere, anzi le aziende brave tagliano per crescere. Non si capisce perché nell'area euro si debba solo tagliare e mai pensare a come crescere. Alessandro Merli, inviato a Barcellona, perché oggi la BCE si riuniva a Barcellona. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, sei d'accordo anche tu con Draghi, immagino? Beh, è difficile non essere d'accordo con Draghi, è come dire che la mamma è cattiva o che Garibaldi dire che bisogna rimettere al centro della... Questa è più una banalità, siamo d'accordo, quando ha detto... accettata da tutti, però è molto importante che sia stato Draghi che ha spostato un po' l'accento del discorso. Insomma, fino a qualche settimana fa non si parlava di nient'altro che tagli. Risanamento dei conti e cose di questo genere. Mm-hmm. Quindi Draghi ha fatto molto bene a fare questa correzione di rotta, anche perché, lo ha detto lui stesso oggi, lo avete ricordato voi, nel frattempo i dati che arrivano dall'economia sono più negativi, gli ultimi sono peggiori, l'incertezza è aumentata, dice Draghi, anche se si aspetta ancora che verso la fine dell'anno ci sia una ripresa graduale, però l'incertezza è molto aumentata. Sì, io ho trovato più una banalità, se il Presidente del BCE mi permette, aver detto meglio tagliare la spesa che aumentare le tasse. No, quella invece, come tu ricordavi, la frase che abbiamo appena fatto sentire, cioè non esiste alcuna incompatibilità tra una riduzione della spesa pubblica, o meglio, scusatemi, mettere i conti sotto controllo e pensare alla crescita, la trovo una cosa che dovrebbe essere capita anche in Germania. La Germania è ossessionata solo perché tanto lei la crescita ce l'ha e quindi se ne frega della crescita degli altri, se mi fate... Beh, diciamo che la crescita ce l'ha avuta l'anno scorso. L'anno scorso la Germania ha avuto una crescita molto abbondante. Quest'anno avrà una crescita molto più debole. La Germania non più può 0,6. Pensare di vivere in un vuoto rispetto al resto dell'Eurozona. Appunto, si parla dello 0,5-0,6. È meglio di un meno 2%, però... non si può certo dire che la crescita della Germania quest'anno sarà brillante. Certo c'è una prospettiva molto diversa. Per quello che riguarda la questione tasse e spesa pubblica, credo che Draghi abbia voluto, anche se non l'ha fatto esplicitamente, riferirsi un po' al caso italiano. Ha detto: io capisco che sotto l'impulso dell'emergenza i governi sono costretti a scegliere la strada più rapida e anche più semplice di aumentare le tasse e magari tagliare gli investimenti, però ha voluto dire che poi si devono correggere nel medio termine e quindi che l'accento va spostato sui tagli di spesa, non sugli aumenti di tasse, e all'interno dei tagli di spesa va tagliata la spesa corrente, non quella per gli investimenti, che può avere delle ricadute positive invece sulla crescita. No, guardate, c'è un ascoltatore che scrive: Hollande metterà in riga anche il suo Draghi. Mio Draghi proprio no. A me Draghi piace. Io dico una volta tanto che c'è un italiano che ci fa fare bella figura, comunque la si pensi, è presidente della Banca Centrale Europea, è riuscito anche, tra virgolette, a girare le resistenze tedesche, a fregarli con l'operazione di finanziamento delle banche. A me Draghi piace, non penso che Hollande lo metterà in riga, penso casomai il contrario, ma ne parliamo nella seconda ora del programma. Intanto grazie ad Alessandro Merli in collegamento con noi da Barcellona, il GR e poi anche aggiornamenti durante il GR, chiaramente da quello che sta succedendo a Bergamo, l'uomo che si è barricato nella sede dell'Agenzia delle Entrate. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, visto che abbiamo aperto con i costi della politica e ripeto, non erano solo quelli del Senato e delle sue agendine, mamma mia, ma erano anche dell'Assemblea regionale siciliana, in cui appunto sono crollati gli utilizzi della buvette, adesso che il pesce, la grigliata di pesce costa 15 euro e la pasta di pomodoro costa 3 euro. Sulle agendine vedo una marea di messaggi, non possiamo fare tutta la puntata su questo, faccio solo presente che sono che spenderemo noi 1 milione di euro per dare ai nostri senatori 5.200 agende per 2 anni da tavolo e 17.000 agende tascabili in 4 formati diversi, e poi il discorso delle 20 milioni di pagine bianche e nere, 1 milione di pagine colori stampate, che ci costano la bellezza solo di fotocopiatrici 3 milioni e mezzo all'anno. 3 milioni, scusate, in 60 mesi, 700 mila euro all'anno solo per quello che riguarda l'acquisto delle macchine fotocopiatrici. Diamo anche qualche buona notizia, perché oggi tra la persona che si è barricata, purtroppo non abbiamo novità nella sede dell'Agenzia delle Entrate in provincia di Bergamo, Romano di Lombardia, le notizie che purtroppo sono arrivate dai suicidi, non è una bella giornata nemmeno oggi, però c'è una buona notizia ed è quella che riguarda i crediti alle imprese. Sapete che sono almeno 70 miliardi di euro, almeno, in realtà sono molto di più, i soldi che la pubblica amministrazione deve agli imprenditori, e spesso abbiamo ricevuto mail di gente che era obbligata a chiudere o che la banca gli bloccava tutti i prestiti perché tanto non riusciva a riscuotere i soldi della pubblica amministrazione, e non c'è nessuno sconto fiscale e non è che lo Stato ti dica vabbè intanto te li scarico dalle tasse che mi devi. C'è un'iniziativa importante del Piemonte, della regione Piemonte, votata, devo dire, in maniera bipartisan, cioè maggioranza e opposizione. E cioè il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una proposta per garantire che i crediti delle imprese fornitrici alla Regione Piemonte, in particolar modo alle ASL e alle ASO, il 70% infatti di questi crediti che non vengono pagati agli imprenditori sono nella sanità, ebbene, che vengono saldati entro un mese. Il riconoscimento dei crediti darà diritto alle imprese di cederli alle banche e quindi potranno andare in banca e dire: ho questi crediti, dammi i soldi o il prestito, più o meno equivalente. Spero di aver capito bene, ma me lo spiegherà meglio il capogruppo dell'Italia dei Valori al Consiglio regionale del Piemonte, Andrea Buquicchio, che è stato colui quale ha proposto, poi tutti l'hanno votata, questa norma. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, mi spiega, voi entro un mese pagherete o darete che cosa? Abbiamo pensato di presentare questo emendamento perché qui stiamo lavorando sulla finanziaria da diversi giorni, siamo quasi alla fine. L'emendamento prevedeva che la Regione Piemonte, in collaborazione con la Finpiemonte, Consip, potessero avviare un sistema di accertamento dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Regione stessa, no? E degli enti a partecipazione regionale. Questo emendamento, dopo una discussione, devo dire, accesa, nella quale abbiamo messo noi dall'opposizione di fronte alle proprie responsabilità la maggioranza, è stato votato di fatto all'unanimità e porta al fatto che il riconoscimento del credito potrà dare la possibilità alle imprese di cedere lo stesso alle varie banche o agli intermediari riconosciuti, e questo è importante, nella forma del prosoluto, non nella forma del prosolvendo, come dice Passera e vi seguito per alcune cose. Che cosa comporta il prosoluto? Comporta che chi cede il prestito non debba rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore, che può essere appunto l'ente regione, l'ASL, l'ASO o quant'altri. Ritengo che questo, in un momento di grande difficoltà per le imprese, sia un atto dovuto, e devo dire che messa alle strette la Regione Piemonte ha dovuto prendere atto e coraggiosamente ha dato un parere favorevole la Giunta a questo tipo di votazione. Io ritengo che a questo punto, e mi aspetto una mano anche da lei, perché sicuramente la sua voce è molto autorevole, si possa portare avanti l'iniziativa stringendo a questo punto anche gli istituti bancari, che sono loro che poi... No, però mi faccia capire una cosa, Buquicchio. Adesso, prosoluto va benissimo, cioè ci sono due possibilità. O uno gira questi crediti alle banche, però prosolvendo, che vuol dire che se poi lo Stato non paga, la banca ti richiede i soldi indietro. No. La formula del prosoluto è una formula... prosolvendo, io parlo del prosolvendo. No, prosolvendo in questo caso non c'entra. Mi fa spiegare però la differenza, solo un attimo. Il prosolvendo, sostanzialmente, tu puoi girare questi crediti alle banche a patto che però poi lo Stato paghi. Se poi lo Stato non paga, la banca dice, no, li rivoglio. Mentre nel prosoluto, quello che voi avete ottenuto, è la banca che si fa carico poi di ottenere questi soldi dallo Stato, per cui l'imprenditore non ha più vincoli. Quando lei mi dice speriamo che le banche lo accettino, vuol dire che non siete sicuri? No, il problema è che, come lei mi insegna, le banche non sono obbligate di fatto a rilasciare un credito, perché che cosa funziona, per spiegare ai telespettatori? Nel momento in cui io, impresa, che sono in rosso sul conto corrente, presento la certificazione del mio credito, faccio un esempio, di 100.000 euro, la banca deve essere ovviamente più invogliata a rilasciarmi uno scoperto sul mio conto corrente, se non di 100.000 euro, di 90 o di 80 o di quello che è, a tassi di interesse da stabilirsi, nel momento in cui sa che il creditore effettivo è l'ente pubblico, quindi la regione o lo Stato o similari. Rispetto al prosolvendo c'è questo vantaggio, che l'istituto bancario ha un titolo in termini di garanzia sicuramente maggiore, e quindi far passare la formula del prosoluto rispetto al prosolvendo era quella la difficoltà, perché poi sa, a parole tutti possono dire sì, io ti certifico, perché non mi posso neanche rifiutare con una legge nazionale da gennaio di certificare il tuo credito, però la banca può anche di fatto non essere obbligata, e a questo occorre poi, ecco che io mi sono permesso di dire, ma non era una battuta, era veramente un invito, dovreste aiutarci, no? Aiutarci voi a sensibilizzare gli istituti bancari da una parte, ma anche il governo, perché il governo potrebbe, cosa che ad oggi non ha mai minimamente pensato di fare, imporre agli istituti bancari, che già hanno 1000 agevolazioni su tutti i fronti. Ho capito benissimo, quindi lei dice noi la legge l'abbiamo fatta, però non possiamo obbligare le banche a prendere il prosoluto, al massimo il prosolvendo. Sì, sono d'accordo con lei, non basta una legge regionale, apprezziamo l'iniziativa perché già il prosoluto è qualcosa, però occorre una moral suasion. Io non penso che lo Stato possa obbligare, oddio, si farà legge, sì, ma non possa obbligare, però può fare della moral suasion, insomma. Cioè, se le banche poi non si fidano della solvibilità dello Stato, facciamo prima a chiudere baracca e burattini e salutarci tutti quanti. Grazie alla sua iniziativa, che è comunque qualcosa, vedo già molti critici, ma insomma, ogni tanto vediamo anche il bicchiere mezzo pieno o il quartino di bicchiere mezzo pieno. E un'iniziativa del genere, se venisse adottata da tutti i consigli regionali italiani, obbligherebbe di fatto il governo nazionale a andare dalle banche e dire attenzione, qua devi prendere il prosoluto, non il prosolvendo. E comunque, ripeto, anche il prosolvendo è già qualcosa rispetto al nulla di adesso. L'iniziativa ci crediamo, è per quello che l'abbiamo invitata, e la ricorderemo anche più spesso. Grazie al capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Piemonte, Andrea Buquicchio. Devo dare la linea al traffico e poi l'ultima parte, che cosa potrebbe arrivare dalla Francia, ma ci sono anche le vostre lettere, le lettere di chi ha scritto al gruppo, all'indirizzo disperatimai@radio24.it, 349-238-6666 invece è il numero per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia, leggo un messaggio che mi porta all'ultimo tema, dunque se lo leggo se lo riesco a ritrovare in realtà. Diceva Barisoni, ma lei che è un seguace di Keynes, John Maynard Keynes, colui il quale fece uscire dalla recessione l'intero mondo nel 29, dicendo che in fase di crisi devi spendere, non devi tagliare e basta. E dovrebbe essere contento se si spendono 1 milione di euro per le agendine dei senatori. Allora, va letto bene Keynes, non ha mai scritto butta via i soldi e riparte l'economia. Ha detto, adesso traduco in maniera molto sintetica, che in periodi di crisi economica, se tu continui a tagliare, peggiori la malattia del malato. Se invece con operazioni di finanza pubblica, e quindi Tennessee Valley Authority Act, che Roosevelt mise in pratica, se non ricordo male, ciò che ho studiato, fai delle grandi opere infrastrutturali che permettono alla gente di essere occupata, di ricevere un minimo di stipendio, in questo modo consumano e riparte il ciclo virtuoso. Se continui a tagliare e aumentare la disoccupazione non riparte nulla. E di questo parliamo in vista di quello che sarà domenica l'appuntamento più importante d'Europa, ossia chi sarà il prossimo presidente della Repubblica Francese. Il y a une différence entre nous. Vous voulez moins de riches, moi je veux moins de pauvres. Et il y a à la fois plus de pauvres et des riches plus riches. Ce n'est pas exact. Si, c'est vrai. Et ce n'est pas une plaisanterie. Et ce n'est pas une plaisanterie, France, c'est là, c'est une réalité. La France est en Europe et dans un monde ouvert. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Hollande? Que tout le monde s'en aille? Que plus personne ne puisse payer des impôts ici? La France est, avec la Suède, le pays où les impôts sont les plus lourds. Vous voulez continuer à les augmenter? Vous voulez faire croire quoi? Nous avons les impôts les plus élevés d'Europe avec la Suède. Et que vous proposez pour financer votre folie dépensière, votre incapacité à dire non dès qu'un syndicat ou un corps intermédiaire vous demande quelque chose. Une augmentation continue des impôts. Oh, intanto bello dibattito, senza esclusione di colpi. Chi l'avesse seguito ieri se ne sono dette di tutti i colori. C'è stato un passaggio anche in cui Hollande ha detto a Sarkozy: tu eri amico di Berlusconi. E l'altro gli ha risposto: sì, però Berlusconi ha dichiarato che vota per te. E quindi, insomma, l'Italia è entrata anche in questo frangente. Però Jean-Paul Fitoussi, che ringrazio per essere in collegamento con noi, insegna sia alla LUISS a Roma che all'Institut des études politiques di Parigi, è presidente del Centro Studi dell'Osservatorio Francese di Congiuntura Economica. Buonasera, Fitoussi. Buonasera. Allora, cerco di tradurre, lo farà meglio di me. C'era un passaggio in cui all'inizio Sarkozy diceva a Hollande: io voglio meno poveri, tu vuoi meno ricchi. E l'altro rispondeva: no, ma tu hai avuto più ricchi e più poveri. E poi tutta l'accusa alla tassa che ha proposto del 75% di aliquota sopra il milione di euro. Intanto mi dica, secondo lei, per i francesi, chi è andato meglio ieri? Non si può dire così. Dipende dalle sue proprie convinzioni. Io ho trovato che sull'Europa Hollande è stato molto più convincente che Sarkozy, perché fa crescere un po' di speranza in questa vecchia Europa dove da quanto si porta il riguardo c'è l'austerità. E come lei parlava di Keynes prima, l'austerità non fa bene né alla disoccupazione né al benessere della gente, e si vede bene. Allora, visto che oggi visto che oggi Mario Draghi ha detto non c'è nessuna contrapposizione tra fiscal compact e growth compact, cioè tra mettere sotto controllo la spesa pubblica e quindi fare riduzioni di deficit e debito e trovare delle misure per la crescita, secondo lei cambia tutto. Certo. Cambia tutto, perché una rimarca: se c'è crescita l'austerità fiscale non fa male, certo. Se non c'è crescita fa un male tremendo. E questo è il problema. Se abbiamo veramente un programma di crescita, allora viva l'austerità e le conti in ordine. Certo. E anche appunto tagli se il paese cresce. Mi dica una cosa però per concludere, Fitoussi, poi la arriveremo ospite lunedì perché ha risultati avvenuti, ma anche se vincesse Sarkozy, secondo lei non sarà più come prima? Cioè, ha capito Sarkozy che il suo schierarsi a tappetino, a zerbino con la Germania non gli ha portato consenso? La Francia è il paese dopo l'Italia più a rischio in Europa, cioè la classifica poco invidiabile, cioè Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna, Italia, Francia, prego. Sì, l'avevo detto da 2 anni che questa crisi non risparmierà nessun paese, anche la Germania. La Francia è a rischio e devo dire che anche Sarkozy vuole un intervento più diretto verso gli stati indebitati della BCE. Dunque dovrebbe cambiare, perché sia Hollande, che ha un atteggiamento chiaro sulla questione, sia Sarkozy riviene sull'accordo che ha con la Merkel di non coinvolgere la Banca Centrale Europea nel gioco economico europeo. Dunque, questo dovrebbe cambiare il dibattito in Europa, almeno il dibattito e forse l'andamento dell'economia. Quindi lei dice comunque vada, anche se così non sarà più così filo tedesco, se ho ben capito. Sì, perché essere tedesco oggi non porta voce, ma essere tedesco oggi può condurre alla peggiore situazione che noi abbiamo visto dagli anni 30. Dagli anni 30 in poi. Ecco, do anche una risposta in questo modo a chi mi ha scritto al 349-238-6666. La smetta di attaccare la Germania quando poi ha il senso di essere accerchiata reagisce male. E che devo farci? È lei che si sta ponendo in una situazione di isolamento totale, perfino l'Olanda l'ha scaricata, in Olanda hanno avuto una crisi di governo, io come battuta dico sempre che pesa più l'Olanda che Hollande in questo momento per il cancelliere Angela Merkel. Jean-Paul Fitoussi, resti con noi perché siamo in conclusione, ma vorrei farle ascoltare così anche... Le ascolta anche lei alcune delle migliaia di lettere che ci stanno arrivando all'indirizzo Disperati Mai, rivolte a imprenditori, piccoli artigiani, commercianti in difficoltà da quando abbiamo lanciato l'iniziativa. Buongiorno, sono il presidente della società, tralascio il nome, siamo due soci che danno da mangiare a una decina di persone, poche lo so, ma credo comunque significative. Io e il mio socio è da settembre che non prendiamo un euro dall'azienda, siamo all'estremo, non riesco a pagare le tasse, sono indietro con l'IVA, con l'INPS, dilazioni i fornitori, cerco di pagare i dipendenti, faccio dei numeri inverosimili pur di stare a galla, ma è dura. Molti clienti non ci pagano per far fronte all'immediato affitto, luce, eccetera. Ho chiesto alla banca un fido provvisorio di 30.000 euro, non milioni, e non abbiamo esposizioni economiche fuori controllo. Dopo 20 giorni, lo sapete cosa mi hanno offerto? Beh, uno slancio di solidarietà che mi ha stupito, 5.000 euro, dei quali 1.300 se li sono presi per uno sconfino di fido di due giorni, per 2.000 euro. Ma vaffa bastardi, non lo so, non so più nulla, vedo tutto nero, il futuro mi fa davvero paura. Ho una figlia e una moglie che, grazie a Dio, per il momento lavora da impiegata e mantiene la nostra famiglia con 1.500 euro al mese, 580 euro di mutuo, e cerchiamo di vivere. Ho 47 anni. Buongiorno, nel 2010 l'INPS, dopo aver stabilito che la mia società opera nel commercio, ha preteso da me la somma di 8.000 euro da riscuotere attraverso Equitalia e che sono diventati 19.910. Non chiedetemi come possono 8.000 euro lievitare e diventare 19.910. Comunque, in tutta fretta, ho chiesto un prestito, mi hanno dato una settimana di tempo e ho pagato onde evitare ulteriori maggiorazioni. Poi faccio i conti dal mio consulente. Risulta che l'INPS mi deve rendere più di 10.000 euro per contributi pagati in più, alla voce gestione separata 335/95. Ecco, loro da me hanno preteso più del doppio e da chiudersi il tutto in una settimana, quei 10.000 euro che mi devono restituire. Li sto aspettando invece da settembre 2010, nonostante le continue sollecitazioni. Presidente dell'INPS, Antonio Mastropasqua, lei che guadagna 1.200.000 euro con 15 incarichi. Usiamo lo stesso peso, la stessa misura. Questo nel giorno, ne ho altre di lettere da leggere, ma le leggerò ancora domani. Questo nel giorno in cui purtroppo dobbiamo dare conto di due suicidi. Uno è avvenuto il 1 maggio, un piccolo imprenditore di Treviso di 52 anni si è impiccato all'interno del suo camion a Falzetta di Trevignano, in provincia di Treviso, e un altro, dopo essere rimasto senza lavoro a 51 anni, residente a Migliarina, frazione di Carpi, appunto in provincia di Modena. Non fatelo, non pagate, piuttosto non fate atti estremi. Buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.